Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Cece Spankers, me ne voglio andare via di qui. Me ne voglio andare in un'isola in mezzo al mare. Me ne vado via di qui. Colloquio, due colloqui, tre colloqui, four, tre aggettivi per descrivermi. What the fuck anymore? Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Avvio in musica, oggi Me ne voglio andare. SMC and Spankers featuring Michelle Lilly ripropongono in versione rap il tema della fuga dei giovani dal paese. Una puntata decisamente incentrata sul mondo delle università e delle poche opportunità che la nostra accademia offre ai giovani, quella odierna. Sarà anche una puntata, come ascolterete, tutta al femminile, voleremo fino in Australia. La frase della settimana è copyright di Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria. L'Italia non è un paese attraente per i giovani, vanno dove concepiscono possibilità maggiori. I nostri giovani vanno all'estero perché hanno un po' perso la fiducia nel paese. Piuttosto che internazionalizzare la nostra ricerca, dovremmo concentrarci su come trattenere i nostri talenti, dice Squinzi. E uno dei problemi principali del sistema Italia resta proprio quello del capitale umano e della sua preparazione. Nel 2013 solo il 18% delle piccole e medie imprese aveva avviato corsi di formazione e aggiornamento, secondo l'osservatorio Expo Training. Denunciano gli estensori della ricerca: in Italia ogni lavoratore svolge in un anno un'ora e mezza di formazione, mentre in Germania la cifra sale a 24 ore annue pro capite. Sarà anche per questo, ci chiediamo, che la nostra competitività non cresce? Dall'impresa al settore università e ricerca. Complimenti a Fabiola Gianotti, fisica italiana e neodirettrice del CERN di Ginevra. L'elezione della dottoressa Gianotti conferma come l'Italia e i suoi talenti siano in grado di competere con successo sulla scena internazionale e come la ricerca meriti un più adeguato investimento di risorse da parte delle nostre istituzioni, afferma il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Stendiamo invece un velo pietoso in ambito accademico sulla vicenda dei test di ingresso del primo concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina. Un'altra brutta pagina davvero per il nostro sistema di selezione universitaria. Mentre all'estero, ascoltate bene, funziona così. Ho trovato un mondo molto interessato a attrarre giovani preparati che avessero davvero voglia di lavorare sodo e rimboccarsi le maniche. Silvia Mendolia, 36 anni, è una ricercatrice in economia all'Università di Wollongong in Australia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Aumenta il fenomeno degli italiani residenti all'estero, lo rileva il 20° rapporto annuale sulle migrazioni della Fondazione ISMU. Se tra il 90 e il 2000 avevamo assistito a un calo, afferma lo studio, nel decennio successivo si evidenzia una ripresa. Nel 2013 i connazionali all'estero erano 3 milioni, distribuiti principalmente in Europa, America Latina e Nord America. Un lavoratore su 5 nel mondo ha già avuto un'esperienza all'estero, mentre il 63% vorrebbe sperimentarla. Tra i più propensi a emigrare francesi, olandesi e tunisini, questo è il risultato di una ricerca internazionale sulla mobilità lavorativa condotta da Boston Consulting Group. In Italia il numero di under 30 che ipotizza di partire è in linea con la media mondiale tra il 60 e il 70%. In generale, oltre la metà dei connazionali si dice pronta a lavorare all'estero, Germania in cima alle destinazioni preferite. Approda in Italia la società OCU2, specializzata nei consigli a tutti coloro che desiderano intraprendere un'esperienza di vita in Australia. Il servizio è gratuito e personalizzato, secondo quanto annuncia l'azienda. Sarà offerta consulenza nella gestione dei visti, nella scelta dei corsi, nella sistemazione, nella preparazione di un curriculum e nella ricerca di un primo lavoro. Tutte le info su OCU2.it. A proposito di curriculum, in un pianeta dove i mercati del lavoro e gli uffici del personale hanno spesso sensibilità diverse, quale CV serve quando si espatria? HASA, società specializzata nella selezione del management, ha provato a tracciare un identikit del curriculum perfetto. Alessandro Bossi, direttore HASA Italia, ci riassume le caratteristiche imprescindibili. Deve avere sicuramente una forte adattabilità, perché è indubbio che culture diverse comportano anche un'adattabilità alla cultura, non solo al lavoro.

Secondo me uno degli aspetti fondamentali è quello di cercare di rendere innanzitutto accessibili le posizioni accademiche a ricercatori di tutto il mondo, cose che alcune poche università italiane già lo fanno. In realtà è quello di poter offrire ai ricercatori italiani all'estero quello che molte università estere offrono ai ricercatori italiani. Quindi ovviamente anche l'importanza di rendere queste pratiche di selezione meno burocratiche, molto più flessibili, appunto una videoconferenza, il curriculum sono sufficienti per poter valutare in modo semplice e trasparente delle persone. Semplice e trasparente, queste le due parole chiave della giornata di oggi, della puntata di oggi. Grazie a Cinzia Rienzo e domanda diritto per Silvia Mendolia. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Studiate tanto, con tanta fiducia in voi stessi, senza mai accontentarsi e soprattutto senza credere a chi dice che non c'è alternativa e che bisogna accontentarsi. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un direttore della divisione sviluppo economico e globalizzazione presso la sede ONU di Beirut in Libano, scadenza per i CV 24 novembre, candidature a inspira.un.org. Direttore della comunicazione per Transparency International, sede di Berlino, scadenza per i CV 11 novembre, info su transparency.org. E infine un lettore in chimica farmaceutica all'Università di Liverpool, richiesto il PhD, scadenza per i CV 28 novembre, info su liv.ac.uk. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi andiamo a conoscere l'elite dei giovani professionisti italiani in Francia. Nata dapprima come gruppo LinkedIn, l'associazione Italian Executives in Paris si è gradualmente espansa, arrivando a riunire i manager tricolori più brillanti al lavoro nella capitale transalpina. Francesco Coppola, fondatore e presidente di Italian Executives in Paris. Nasce semplicemente da un'osservazione. L'osservazione è quella che all'interno del tessuto parigino vi sono moltissimi professionisti italiani, quindi che hanno dei ruoli, che coprono dei ruoli che vanno da quadro a quadro dirigente, e quindi semplicemente l'idea è quella di federare tutti i professionisti italiani, secondo stime del consolato, quindi dati AIRE, soltanto a Parigi vi sono 25.000 italiani, però poi se prendiamo anche in conto tutti coloro che non sono iscritti all'AIRE, comunque qui a Parigi si parla più o meno di 50.000 italiani soltanto nel Parigi Intramuros, mentre comunque nell'Île-de-France, che quindi appunto tutta la provincia di Parigi, vi sono più di 120.000 italiani. Voi però vi rivolgete una fetta, uno spicchio molto preciso, cioè i professionisti, gli executive. Quanto è presente questa popolazione di giovani professionisti che hanno raggiunto posizioni elevate all'interno della gerarchia aziendale in Francia? All'interno della gerarchia vi sono comunque moltissimi giovani che sin dall'inizio, sin dalle prime esperienze, ricoprono dei ruoli appunto di cadre. E sono riusciti a fermarsi anche in grandi aziende francesi, immagino. Sì, gruppi internazionali, vi è una rappresentatività di varie aziende, ma soprattutto di aziende francesi. Hai l'impressione che avrebbero avuto la possibilità di fare da giovani una carriera così rapida anche qui in Italia? Sono molto scettico su questo. La carriera all'estero in generale, in particolare in Francia e in Inghilterra, è una carriera che comunque va molto più veloce sin dall'inizio, è una carriera molto più degna, diciamo, di questo nome. Qual è il segreto? Una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità verso i giovani, quali appunto risorsa di un paese, non come schiavi di un sistema controllato dai più vecchi. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italianexecutivesparis.org. Un motivo per restare o tornare. La Regione Puglia finanzierà la ricerca con il progetto Future in Research, un bando da 26 milioni sostenuto da fondi europei per l'assunzione di 170 ricercatori universitari. Con questa iniziativa, dice il governatore Nichi Vendola, ci saranno 170 talenti che non faranno la valigia per andare all'estero, ma aiuteranno la Puglia a crescere e diventare sempre più competitiva.